Vendo tutto di Matteo Caccia. La mia chitarra la suona la figlia di Guglielmo. Con il mio computer Luca ci sta già lavorando. Mentre con la mia stilografica Emanuele sta scrivendo il diario della sua nuova vita. Queste sono solo alcune delle persone che hanno comprato le mie cose. E molte altre ne verranno. Perché io vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Lo so che capita. Succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Voi venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un aspirabriciole. Non solo lo vendo, ma ve lo faccio pure sentire. Paolino, ti prego, abbassa un po' la base. Vale! E questa è la seconda velocità. La prima... Questa, aspetta, che è fissa, se no rimane per tutto il tempo. Ci mette poi un quarto d'ora a spegnersi. Senti che roba. Proviamo a contare il sì. 1, 2, 3. Ci mette tipo 5 secondi a spegnersi. Non è un phone, ma è un aspirabriciole. È un oggetto bellissimo, ma assolutamente inutile. Perché oggi di questo si parlerà, di questa aspirabriciole, che potete vedere sul sito radio24.it e da lì comprarlo su eBay. Ma si parlerà soprattutto di oggetti inutili e di vicini di casa. Ora, il collegamento tra i vicini di casa e questo aspirabriciole lo capirete a breve. Però io volevo spendere due parole prima di cominciare per i piccoli problemi che ho con la signora Virginia. La signora Virginia vive sopra, al piano sopra casa mia, e saprete da a breve che cosa fa e perché. Avete presente quando col vicino di... ci sono delle robe dei vicini di casa che vi fanno imbestialire, però non riuscite a dirgliele. A me capita così, sarà codardia, sarà quello che vuoi, però tipo le briciole sono una questione. La seconda questione con la signora Virginia è la bici che mette davanti alla porta di casa mia. Ci sono due pali nel cortile, potrebbe metterla all'altro. No, lo mette al palo che è di fianco alla porta di casa mia, in modo che io praticamente non entro. Quindi glielo dico adesso, signora Virginia, sono le 4:10 del pomeriggio, è lunedì 1 marzo 2010, sta bicicletta, magari la leghi all'altro palo. 800240024, il numero non è per la signora Virginia, ma visto che oggi si parla di vicini, vi do questa, lasciatemelo dire, grande possibilità. Avete dei vicini di casa che magari adorate anche, perché poi voglio bene alla signora Virginia, che però fanno delle cose che vi danno fastidio e non riuscite a dirglielo, perché poi è orribile, no? Magari mentre vi stanno sbattendo le briciole sopra la testa, a dir subito per piacere, e però quando lo incontrate non riuscite a farlo. Lo fate oggi in diretta a Radio 24, vi do il tempo per farlo e il telefono e il microfono pure. 800240024 oppure 349-238-6666 per gli sms. Ma sapete anche voi che i vostri vicini vogliono sentirlo dire dalla vostra viva voce, quindi 800240024 per i rimbrotti da fare ai vostri vicini che non avete mai avuto il coraggio di fare. Lo fate oggi qui in diretta. Torniamo invece al mio aspirabriciole, lo potete vedere sul sito, la sua storia, eccola qua. L'aspirabriciole. Mini aspirapolvere modello SG67W, marca Alessi, designer Stefano Giovannoni, superficie lucida e riflettente. Dimensioni, lunghezza 38,5 cm, larghezza 11,5 cm, altezza 14 cm. Batteria ricaricabile, anno di progettazione 2004. Prodotto appartenente alla serie disegnata da Stefano Giovannoni, prosegue la ricerca di un nuovo classicismo di armonia e di archetipicità per il paesaggio casalingo del nuovo secolo. Perfetto per gli amanti del bello e per chi non può sbattere la tovaglia fuori dalla finestra. Valore commerciale 108 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ci sono oggetti utili e oggetti inutili. Poi ci sono oggetti utili per alcuni e inutili per altri. Un frigorifero è inutile per un eschimese e utile per il resto del mondo. Invece un pettine è utile per un capellone e inutile per un pelato, vabbè, mi fermo qua. Uno degli oggetti che possiedo, che trovo più inutile in assoluto, è l'aspirabriciole. Se avete sentito la scorsa puntata saprete come sono venuto in possesso di questa aspirabriciole. Se non avete ascoltato quella puntata ve ne faccio sentire un pezzo. Alla fine Giulia mi diede il pacchetto. Io mi ero preparato una piccola scena di sorpresa e di meraviglia per il suo regalo, cercando di fingere che non l'avevo già visto. E non avevo già deciso che tra 60 luoghi proposti io volevo andare nel Salento. Non ci fu bisogno di fingere sorpresa, perché lei sul tavolo appoggiò un pacco che era grande più o meno quanto la scatola dell'elicottero del Big Jim, solo che non era l'elicottero del Big Jim. Era un mini aspirapolvere di design, di quelli che si usano per aspirare le briciole della tovaglia. Non solo per il mio compleanno mi aspettavo un altro regalo, non solo il regalo che ho trovato non era per me, ma ho pure ricevuto l'oggetto più inutile che potessi ricevere. E vi spiego il perché. A cosa serve un aspirabriciole? Lo dice la parola stessa, per pulire la tovaglia dalle briciole del pasto. Ora, se io abitassi in un grattacielo di quelli completamente condizionati, avete presente quelli che non puoi aprire nemmeno una finestra? A quel punto io lo capirei. E lo capirei anche se abitassi al piano alto di un normale palazzo di città. Ma dal momento che vivo al piano terra e ho pure un mini giardinetto davanti alle finestre, io posso permettermi di sbattere la tovaglia fuori dalla finestra. Anzi, vi dirò di più. A me piace sbattere la tovaglia dalla finestra, con tutte le briciole dentro. Mi dà una sensazione di libertà, di liberazione quasi. Certo è che me lo posso permettere, perché non ho nessuno che vive sotto casa mia. Sono quelli che abitano sopra di me. C'è la signora Virginia e la coppia di architetti del terzo piano che non lo potrebbero fare. E invece lo fanno. Loro sì che avrebbero bisogno di un bel aspirabriciole, in modo da non farmi finire tutti i resti dei loro pasti nei miei 7 metri quadri di giardinetto, che già faccio fatica a gestire. Figuriamoci se tutti i giorni ci ritrovo molliche di pane, rimasuglie di formaggi e a volte pure qualche portatovagliolo. Quindi mi succede sempre che ogni volta che vedo piovere delle briciole dall'alto mi viene un nervoso che sparerai a vista i miei vicini. E poi però niente, non sono capace. Cioè non sono capace di fare un piano di scale, suonare alla porta e dire: allora, signora Virginia, sta tovaglia! Non lo so il perché, però non sono capace. E quindi ogni volta che la incontro le chiedo come stanno lei, i suoi figli, i suoi nipoti e tutta la loro stirpe, ma non una parola sull'aspirabriciole. Con i due architetti del secondo piano però la situazione è ancora più difficile, perché siccome siamo praticamente coetanei, loro fanno pure gli amiconi, si chiacchiera sulle scale, mi hanno pure invitato a cena più di una volta. E sapete cosa? Loro, sta aspirabriciole, ce l'hanno pure. Però evidentemente anche loro trovano liberatorio sbattere la tovaglia dalla finestra, direttamente sul mio giardinetto. She don't care how the sweets taste. Fake Philly cheesesteak, but you use real toothpaste. 'Cause if that dime's no worth, if it just makes you worse, would you lose all of your faith in the good? And if it's all a curse, we're just getting worse. Baby, please don't lose your faith in the good. Il loro aspirabriciole però fa schifo, nel senso che è proprio brutto da vedere. Che secondo me alla fine l'80% del lavoro di un'azienda che produce un oggetto così dovrebbe stare nell'aspetto. Perché quanto ci vorrà a produrre un motorino che aspira? Cioè siamo nel 2010, no? Dopo l'allunaggio, dopo l'auto ibrida, credo che la produzione di un motorino aspiratore per la tecnologia moderna sia un po' come per un calciatore di Serie A fare 3 palleggi senza far cadere la palla, no? Quindi, se vuoi che il tuo aspirabriciole sia un minimo intrigante, dagli almeno una bella forma, no? L'aspirabriciole della coppia del terzo piano invece è inguardabile. Mi era parso strano, visto che gli architetti hanno tutti i giorni a che fare con la forma delle cose. E quando durante una cena gliel'ho fatto notare, mi sono accorto di aver toccato un nervo scoperto. Perché lei ha cominciato a dire che avevo ragione io, che era un oggetto davvero brutto, e che quando gliel'aveva regalato lui, lei era rimasta raccapricciata. Lui di contro ha ribattuto che in fondo chi se ne fregava se era brutto, che doveva solo aspirare delle briciole, e il suo lavoro lo faceva perfettamente. Ecco, da quella discussione ho capito che in realtà lui non era un architetto ma un ingegnere, mentre lei non era un architetto ma una designer. Che non so perché ho sempre pensato che fossero una coppia di architetti. Forse perché nella mia testa la media tra un ingegnere e un designer dà un architetto. Vabbè, comunque quella sera imparai un sacco di cose interessanti sul concetto di bellezza e di utilità. Su come una cosa bella e utile è sempre e comunque meglio di una cosa utile e brutta. Perché il mondo ha una sua armonia. E creare cose piene di bellezza è un po' come partecipare di questa armonia. E vedere una cosa bella, che sia una donna, un panorama, un'automobile, ci rende migliori. Magari di poco, ma migliori. Secondo me è un po' come leggere un bel libro, è un po' come guardare un bel film. Ci permettono di capire che un modo per fare le cose fatte bene c'è sempre. Anche se poi nella vita non facciamo gli scrittori registi, ma lavoriamo in un ufficio o alla cassa di un supermercato, c'è sempre un modo per rendere migliore una giornata. Ecco perché, per quanto superfluo possa sembrare, la forma di un aspirabriciole è quasi più importante del lavoro che fa. Perché già è un oggetto inutile. E allora tanto vale renderlo bello almeno, no? Luccicante e filante come un aereo. Che almeno non ti rovina la giornata quando lo vedi lì, in cucina, di fianco ai fornelli. Ecco perché, nonostante tutto, nonostante le briciole, la sua forma filante e il design, questo aspirabriciole è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 108 euro. La base d'asta, qui, parte a 99 centesimi. Se volete dire ai vostri vicini quello che non avete mai detto, fatelo in onda. 80024 0024. Every star is crossed by frenetic thoughts that separate and then collide. And they twist like sheets till you fall asleep. And they finally unwind. It's a black balloon. It's a dream you'll soon deny. 16:21, questa è Radio 24, il programma è Vendo Tutto, anche se ci stiamo trasformando in un abuso al giorno, o in un vicino al giorno direi, visto che qua mi scrivono: i vicini lasciano pisciare i cani sull'angolo della mia casa, ho già detto tutto, esiste un veleno? Mario, non lo so se esiste un veleno, però se vuoi dirglielo direttamente chiama l'80024 0024 e fai come Fabio da Milano. Pronto Fabio? Pronto, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, e tu? Io bene, ma tu dove sei, in uno scantinato o... Sono in una stanza piuttosto ampia e rimbombante, a quanto pare. Ok. Però sono solo, quindi posso parlare male dei vicini. Perfetto. No, io direi, diglielo chiaramente al tuo vicino. Chi è il tuo vicino, un uomo o una donna? È una ragazza. È una ragazza. E cosa fa? Allora, questa ragazza ha un cane enorme. A parte che sembri in una cattedrale, Fabio, cioè veramente un'acustica. Però, insomma, lei ha un cane enorme, la tua vicina. Sì, però, attenzione, è silenziosissimo. Con Alano, mm-hmm. Ma è buonissimo. Sì. Quindi non è per quello che mi lamento. Quanto okay. Per il fatto che... che siano le 8 del mattino o l'una di notte, quando telefona al suo ragazzo, le viene una voce da fringuello. Sì. E c'è un fiorire di tesoro. Okay. Tu conosci il nome di questa tua vicina o proprio non l'hai mai rivolta la parola? Sì, conosco il suo nome. Però non è presente una volta sul pianerottolo. Va bene, quindi facciamo così, Fabio, glielo dico io. Lei si chiama? Alessandra, sto fidanzato, A posto, abbiamo detto tutto. Fabio, grazie mille, buona giornata. Ciao, bello, grazie. Ciao, Stefano da Roma, pronto? Stefano? C'è qualcuno che parla sotto, ma non risponde al telefono. Pronto? Niente, ha smesso, niente, andiamo un altro. Alessandro dalla provincia di Monza, però mi piaceva stare ad ascoltare. Pronto? Alessandro. Sì, pronto, ciao, sono Alessandro. Ciao, bravo Alessandro che sei tu, e non come l'altro che aveva appoggiato il telefono sul tavolo. Senti, dimmi che cosa accade con i tuoi vicini. Ma niente, io praticamente ho un vicino sopra, quindi un soprino più che un vicino. Sì. Che niente, ha un cane che è grosso come un vitello, peloso come un orso. E praticamente io al posto dell'erba ho un manto di peli di cane sul mio giardino. E gliel'hai mai detto? Sì, gliel'ho detto già una volta, però vabbè, evidentemente anche loro si sentono liberi così a buttare giù i peli. Come si chiamano loro? Si chiamano Marrone. Di cognome? Sì, di cognome, okay. Marrone. Va bene, allora glielo dico io. Signori Marrone, sto cane, A posto, ho detto tutto. Alessandro, grazie mille, buona giornata. Grazie anche a te. Ciao. Ciao. Andiamo a Pescara da Orietta. Pronto? Ciao. Ciao Orietta, come va? Va abbastanza bene. Dimmi, volevo dirti che sono io la colpevole che tiro giù le briciole a una mia amica nemica. E tu non ce l'hai. Non posso farne a meno. Ma scusami, Orietta, tu non ce l'hai? Questo non ce l'hai? Cosa non ce l'ho? L'aspirabriciole. No, non ce l'ho, non l'ho mai avuto. E allora vai su eBay e te lo compri, viene 99 centesimi, è pure bello questo. Sì, ok, va bene, perché se non altro ho telefonato per questo, quindi decido. Brava, a che piano? Ma io lo faccio perché devono mangiare gli uccellini sopra questo balcone. Sala degli uccellini, prima la fa Jean. No, dai, che sono belli. Senti, i tuoi vicini non ti hanno mai detto niente? No, lo faccio solo a lei. Solo a quella vicina lì? solo quella vicina perché è molto molto cattiva. Ah, ok. Allora facciamo così, visto che lei non ti ha mai detto niente, te lo dico io per lei. No, lei me l'ha detto, me l'ha detto, ma io però... candidamente le dico che non riesco a farne a meno. Sono proprio cattiva io. Lo so, Orietta, però mi spiace, ma ti tocca. Orietta, stato vaglia, eh? A posto. Orietta, grazie mille e buona giornata. Grazie. Sono le 16:25, purtroppo oggi è stato più breve del solito, non per tutti, direi, perché qualcuno mi scrive personalmente, trovo molto più inutile un conduttore radiofonico solo di 24 dalle 16 alle 16:30. Mi piace sempre concludere con un bel SMS, però prima di concludere vi faccio sentire che cosa farò anche con i soldi di questo aspirapolvere. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Fortunatamente Federico D'Alessandria è d'accordo con me. Allora, il motorino lo comprano già belle fatte finito in Asia. Il meccanismo lo mettono insieme. L'unico lavoro che devono fare è proprio il design. Bene, Federico, anche per te vale chiaramente l'invito. Vai sul sito Radio 24, ti puoi comprare il mio, che è un aspirabriciole inutile ma bellissimo. Invece utilissimi come al solito sono Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Se vi interessa appunto questo oggetto, andatevelo a prendere radio24.it. Domani invece vendo per la prima volta non un oggetto singolo. Domani vendo una vera e propria collezione. È la mia collezione di Topolino, oltre 600 copie di Topolino dal 1982 al 1994 e quasi mi commuovo a dirlo. Voi invece, se avete un aspirabriciole ma potete sbattere sta tovaglia, liberatevene, che alla fine un aspirabriciole è davvero solo un aspirabriciole. Love, love, love, wherever...